Seduto presso a poco sull'orlo della sera, guardavi il mondo con indifferenza. Negli occhi avevi l'ombra dei sogni di una vita, sul viso disegnata la fatica. E quei momenti riempiti della sera, di un altro giorno che si ripeteva, di un altro giorno che si ripeteva. Nella penombra scendevano le ore, sopra la polvere del tavolo in cucina, e le tue notti sapevano di muffa che ricopriva il tanfo dei lenzuoli, come l'odore del cibo riscaldato che rivestiva ormai tutti i pensieri. Ma qualche volta solo sentivi quella musica, quel valzer mozzafiato di tanto tempo fa. Così ti alzavi poco barcollante, mentre la stanza di blu si colorava, e con lo sguardo attento lei cercavi quella di un valzer di tanto tempo fa. E lei sorrideva e a te si avvicinava, scostando quel silenzio che la circondava, e poi con dolcezza la mano sua baciavi e l'orchestra riprendeva, il ballo cominciava, e tu con lei che ti sfiorava, e tutto attorno che brillava. Volavi sopra il letto, piedi tuoi il mondo che girava. Il ballo non finì, un colpo forte al cuore, la musica cessò. Così la morte arriva, così sempre da nemica, ma quella notte no, non fu così, perché con quella donna ancora lì vicino e l'animo disperso nel suo viso, sciogliesti la tua vita in un sorriso.